nascesti sospirando sotto di rana stella. Amor, fino cuore, fino cuore, papà, ma sventurato. Nascesti sospirando sotto di rana stella. Nascesti sospirando sotto di rana stella. Amor, amor, fino cuore, fino cuore, ma sventurato. Ma sventurato, amor, un vino cuore, un vino cuore.